Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda i temi, continueremo chiaramente sulla riforma delle banche popolari, perché ancora c'è molto dibattito, perché non stanno parlando i banchieri coinvolti, lo dico subito, e mi riferisco quindi a tutti gli amministratori delegati e presidenti delle banche popolari. Domani c'è l'assemblea, chiamiamola così, incontro presso Asso Popolari, che è l'associazione che li riunisce, delle banche popolari, e arriverà un comunicato e attendiamo con ansia, netto alla critica di tutto il mondo, anche sindacale. Di questo invece parleremo subito, perché anche i sindacati dei bancari sono molto scettici sulla riforma. Ricordo, riforma che elimina il voto capitario, una testa, un voto, come attualmente in tutte le banche popolari, elimina il tetto del possesso massimo all'1% ed elimina anche il minimo di soci di 200. Per quali banche? Solo per quelle banche popolari che superano gli 8 miliardi di patrimonio, quindi sono 10 in tutto. Le non quotate sono Veneto Banca e Popolare di Vicenza, le altre sono tutte quotate. Tutte le altre banche popolari e le BCC, le banche di credito cooperativo, restano invariate. Varie le obiezioni, anche per quello che riguarda, dicevi, i sindacati, adesso li sentiremo. Attenzione, dicono i sindacati, può partire una nuova ondata di fusioni e quindi esuberi. Il governo però ha già fatto capire, che hanno 18 mesi, come già era uscito ieri dalla bozza del Consiglio dei Ministri, 18 mesi per adeguarsi, quindi non è proprio che capiti adesso. Ma hanno anche detto, attenzione, ci sarà un sistema di sanzioni per le banche popolari che entro un anno non o tornano sotto la soglia degli 8 miliardi, cioè hanno due possibilità, o hanno patrimoni inferiori agli 8 miliardi, oppure devono trasformarsi in SPA o addirittura liquidazione. Le sanzioni saranno adottate dalla Banca d'Italia tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento. Vanno dal divieto di avviare nuove operazioni alla proposta di revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e liquidazione coatta amministrativa. Cioè, scusatemi, si va da un divieto però contenuto addirittura alla liquidazione coatta amministrativa. Dipende dall'entità del non adeguamento. Ovvio che si stia levando uno scudo o un insieme di scudi su questa riforma, anche politico. Io faccio notare che Salvatore Bragantini, due giorni fa, prima della decisione del Consiglio dei Ministri, disse: il governo potrà decidere quello che vuole, tanto il Parlamento affosserà qualunque riforma del mondo delle popolari, che è ben rappresentato per gli interessi legittimi in molti casi, meno legittimi in altri, sul territorio, sull'intreccio di potere bancario, potere politico, potere imprenditoriale, è ben rappresentato in Parlamento. Devo dire che infatti, per esempio, il ministro Lupi si è detto, ha dato un giudizio critico sul provvedimento e sulle sue modalità. Altri fanno osservare che il metodo non è piaciuto, cioè il decreto d'urgenza, come se fosse un elemento, diciamo, di estrema urgenza da prendersi subito. Questo, a mio avviso, forse è un'obiezione più corretta, perché per decreto si fa poco. Detto ciò, la FABI, il sindacato dei bancari, dice che la riforma crea un rischio per i posti di lavoro, e il presidente di Asso Popolari, Ettore Caselli, ha detto: attenzione, siamo molto perplessi sull'ipotesi di questa riforma. Mentre il numero uno di Unicredit, Ghizzoni, ha detto: non ci interessa nessun cambio di strategia all'orizzonte, il risico delle popolari, cioè chi andrà con chi si fonderà con chi, non ci interessa. Chiudo, ma ne parliamo poi in apertura, dicendo che molti avanzano anche l'ipotesi che tutto questo meccanismo serve in sostanza per arrivare a una fusione tra una banca popolare e Monte dei Paschi e un'altra banca popolare e la Cassa di Risparmio di Genova. Ipotesi già avanzata ieri in diretta dall'editorialista del Sole 24 Ore Donato Masciandaro, molto contrario a questa riforma, ha fatto anche notare che siede nel consiglio di amministrazione di una banca popolare, per cui ha chiarito, diciamo, l'eventuale conflitto di interessi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ci occuperemo anche di quanto dichiarato ieri in tema di economia Barack Obama nel giorno in cui si apre Davos, e ascolteremo anche alcuni dei passaggi di carattere economico del Presidente del Consiglio Matteo Renzi proprio da Davos in Svizzera, dove si è aperto il World Economic Forum. La borsa oggi sempre forte, Milano è sempre più forte delle altre borse europee per via del tema delle popolari, più 1,40% Milano, più 0,60 Parigi, più 0,30 Francoforte, più 1,40 Londra, più 0,30 l'America. Fortissimo il Banco Popolare, evidentemente il mercato ragiona che possa essere il predatore futuro, più 9%, vedo già che qualcuno sta mandando dei messaggi, adesso arrivo. E invece molto bene Saipem più 6,12, Tods più 4,40, Pop Milano più 3,5, Pop Emilia Romagna più 3,30%. Oggi di negativo c'è soprattutto A2A meno 3,40, Jux meno 2,20, Buzzi meno 1,20, Luxottica meno 1, come G-Tech. Le notizie in breve. Giustamente chiedete dell'euro, allora l'euro sul dollaro a quota 1,1596, leggermente in rafforzamento verso quota 1,16, ma insomma sempre a un meno 15% rispetto ai livelli di settembre. Vedo tantissimi messaggi sulle popolari, volete la lista? Allora, la lista delle popolari coinvolte, lo so che si alzerà un fuoco di sbarramento, ma è normale, se è una democrazia, il governo decide una cosa, non è che tutti devono essere d'accordo, a maggior ragione se tu chiedi al tacchino di anticipare il Natale, no? Nel senso che fai saltare tutto il meccanismo adesso delle popolari. Le banche popolari coinvolte, ricordo, sono come quotate Banco Popolare, UbiBanca, Popolare Emilia Romagna, Popolare di Milano e poi Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Popolare Etruria Lazio e Popolare di Bari. Poi ci sono anche Veneto Banca e la Popolare di Vicenza. Sì, tra le ipotesi più gettonate dai mercati, una mossa di UBI. Allora, e su Monte dei Paschi e forse una fusione popolare di Milano con la Cassa di Risparmio di Genova. È chiaro che il mercato va a vedere quelle banche che sono uscite meglio dagli stress test, e UBI è uscita bene, ma anche il Banco Popolare, se non ricordo male, e immagina che quelle tra più sane, secondo il giudizio degli stress test, saranno quelle che faranno da predatori. Le prede sono note, sono due le gazzelle, diciamo così, in questa savana bancaria: Monte dei Paschi e Cassa di Risparmio di Genova. Fine. Poi se vi saranno altre aggregazioni, non lo possiamo sapere. Allora, per quello che riguarda le altre notizie sul fronte internazionale, partiamo come sempre dal petrolio, leggermente risalito a $47 al barile. Buone notizie dalla Gran Bretagna sulla disoccupazione. La Gran Bretagna, che ha seguito, lo dico per i posteri, lo stesso modello sostanzialmente seguito dagli Stati Uniti, quindi tassi accomodanti, intervento anche dello Stato, l'economia britannica si è ripresa benissimo, tant'è che oggi sappiamo che il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna è sceso al 5,8% e ai minimi da 6 anni a questa parte. Il tasso di disoccupazione dell'area euro, che ha seguito invece la ricetta tedesca, è ai massimi in molti paesi, massimi storici, non in Germania. Perché è noto che la ricetta tedesca abbia fatto bene solo ai tedeschi, per cui era un po', eh. che non polemizzavo con la Germania. Allora, domani intanto, a proposito di banche centrali, domani importantissimo appuntamento per la Banca Centrale Europea, essendo il giovedì delicatissimo, poi venerdì, anzi giovedì sera a Firenze, poi venerdì mattina di nuovo si incontreranno a Firenze il Premier Matteo Renzi e la Cancelliera Angela Merkel. Ma dicevo, oggi uno dei membri della Banca Centrale Europea, nonché governatore della Banca Centrale Austriaca, Nautoni, ha detto: domani sarà importante l'incontro, ma non dovremo essere sovraeccitati. Indiscrezioni parlano di un quantitative easing, quindi di uno stampaggio di moneta per acquistare titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea intorno ai 50 miliardi di euro al mese da qui fino al 2016. E poi Angela Merkel oggi ha detto: è importante che vengano evitati tutti i segnali che potrebbero significare che vengano indebolite le necessità delle riforme e una maggiore cooperazione dei paesi europei. Vabbè. Ancora il forum di Davos, oggi si è aperto, 4 giorni, 40 tra capi di Stato e di governo, 1500 tra accademici e vertici, top manager dei principali gruppi al mondo. Il tema di quest'anno è il nuovo contesto globale. Ma chi gli scrive i titoli a World Economic Forum? Cioè, ma neanche un tema, vabbè, non devo polemizzare ogni anno, però il nuovo contesto globale, ma che è un tema? Il nuovo contesto globale? Dentro ci metti tutto. E infatti terrorismo, prezzi del petrolio, instabilità geopolitica, rallentamento dell'economia cinese, che rallenta, sì, ha fatto più 7,4 nel 2014. Dunque, inviare un amministratore delegato a Davos, perché pagano le aziende, cioè di solito ci sono i privati che si pagano tutti da soli, poi ci sono gli amministratori delegati che spesso chiedono di poter andare e vengono pagati in quanto attività di lavoro dell'azienda. Costa mediamente partecipare tra alloggio e fee $200,000. Una bella webcam, no, una bella teleconferenza, no. Vabbè, adesso al di là delle battute, questa era veramente una battuta. È ovvio, l'abbiamo detto molte volte, che World Economic Forum è un forum importante per i top manager, che siano bancari, che siano di aziende manifatturiere o dei servizi, perché incontrarsi, adesso al di là della battuta, non si può fare tutto quanto via telefono o via webcam, incontrarsi è importante, le tavole di discussione sono importanti e quant'altro. Chi si attende da Davos invece delle grandi ricette sul futuro, delle grandi capacità di previsione, spesso e volentieri resta deluso, ma che sia importante per chi ci va non lo mettiamo in dubbio. Allora, il Premier Matteo Renzi oggi da Davos, dove è arrivato, ha detto: attenzione, per la politica è il momento del carpe diem, quindi cogli l'attimo, se non ricordo male, e quindi bisogna trasformare i rischi in opportunità, e questa è la sfida del leadership. This is exactly the moment in which we can, and I think the role of politician must be that seize the moment. I use an expression who come from Roma, ancient Roma. Carpe diem. This is exactly the moment in which we can choose the future after a lot of difficulties. So very, very briefly, I think this is a moment, first of all, in my country. Italy needs an incredible season of reforms, and the future is started. I'm not here to present a future of tomorrow. For my country, the time of future is today, not tomorrow. Allora, no, non l'abbiamo tradotto volontariamente Matteo Renzi, Devo dire che l'inglese di Renzi è migliorato. Adesso non siamo ai livelli di Draghi o di Padoan, però rispetto a quello che è diventato un video virale su YouTube a Firenze, se non ricordo male, ce l'avevamo anche, e sta migliorando. E siamo molto contenti, ma al di là di questo, size the moment, la traduzione inglese del Carpe Diem, e questo magari ve lo traduco io sopra. Il Presidente del Consiglio ha anche ribadito la necessità di andare oltre le politiche di sola austerità. We must also say very clearly, European direction is not in economic the correct direction. I participated, as my colleagues, to Brisbane summit of G20 in the last November. Every continent, every country, spoke about the necessity to invest in a growth. Every country, Europe apart, Eurozone apart. Eurozone spoke only about austerity. So I think it's absolutely important to maintain attention to budgets, reduce the taxation, invest in a different idea of relation between citizen and the leadership. But I think also this is the time in which European direction stress with more attention the importance of growth and public and private investments, not only a discipline of austerity. Invece di criticare Davos, fai autocritica, vabbè, alla tua trasmissione sempre più blandamente a favore di Renzi. Bah, mi sembra proprio, però alcuni di voi dicono che lo critichiamo troppo. Comunque, facciamo tutte le autocritiche che volete, non c'è problema, ma continuiamo a criticare Davos nel solo fatto che serve a chi ci va. Non abbiamo detto mille volte, non vi aspettate, visto che non è uscita una riga nel 2007, prima dello scoppio della più grande crisi economica, anche nel 2008, se mi posso permettere. A ottobre fallisce Lehman Brothers, a settembre inizia a precipitare tutto, però Davos a febbraio non dice niente. Sì, qualche rischio, ma la ripresa, me lo ricordo benissimo, ma la ripresa poi tornerà a essere robusta, assieme a Goldman Sachs, assieme a tutti gli altri. Cioè, voglio dire, quando stai sul Titanic, delle volte vedi male l'iceberg, no? Dopodiché ci vada lei a Davos, è un bellissimo posto, è pieno di neve in questo momento. Auguri per le strade, visto che gli svizzeri non le puliscono dalla neve. Ancora sul Quirinale, Matteo Renzi oggi ha detto: penso che Mario Draghi, ecco perché ne parliamo, debba restare alla Banca Centrale Europea. Il presidente sarà, come Napolitano, un arbitro pronto a intervenire. Chiudiamo questa prima parte e poi parliamo delle banche popolari. Con chi? Con in primo luogo con il primo sindacato dei bancari, che difende l'attuale status quo delle banche popolari. Quindi continua il contraddittorio, lo dico, che dice: ma inviti qualcuno che è a favore della riforma. È il sottoscritto a favore della riforma, e invito qualcuno che è contrario alla riforma, così facciamo un dibattito. La buona notizia è questa, che sono 6 aree italiane, 4 tedesche, nella top 10 europea sulle zone ad alta vocazione industriale. I dati pubblicati oggi, trovate su Sole 24 Ore e realizzati anche dalla Fondazione Edison, pongono la provincia di Brescia con 10 miliardi di valore aggiunto del comparto industriale, poi la provincia di Bergamo che crea 9 miliardi di valore aggiunto nel comparto industriale, e poi Wolfsburg, dove, se non ricordo male, però ha sede la Volkswagen, ma va benissimo, nel senso che crea anche indotto, 8,6 miliardi di valore aggiunto, poi la provincia di Vicenza 8,6 miliardi, poi Boblingen 7,6 miliardi, la provincia di Monza e Brianza 7,4 miliardi di valore aggiunto, la provincia di Treviso 7 miliardi, Modena 6,9 miliardi e Ingolstadt 6,9 miliardi. Ed è una buona notizia, nel senso che poi spesso ragioniamo: ah, ma il nostro modello di impresa, sì, certo che ha molte difficoltà, però ricordiamoci anche di quello che ancora riesce a esprimere in termini di export, e riuscirebbe a esprimere anche nel mercato unico europeo, nell'unico mercato ormai tutto interno, se non ci fossero certe regole nazionali e anche di carattere europeo. E insomma, fa impressione vedere che Cioè, Bergamo esprime in termini di valore aggiunto più di Wolfsburg. Non c'è la Volkswagen che produce 10 milioni di auto all'anno a Bergamo, o che Treviso è sotto di poco. Treviso, cioè, rispetto a, appunto, a Wolfsburg, 1 miliardo in meno. Sì, ma avete presente cos'è una cosa e cos'è l'altra? Quindi vuol dire che, con tutte le difficoltà, il nostro sistema di piccole e medie imprese ha ancora una grandissima capacità di fare valore aggiunto. Lasciateglielo però fare. Certezza delle leggi, diritto civile, burocrazia più snella, certezza delle tasse da pagare, certezza dei ricorsi, controlli, autocertificazione, le cose che diciamo da anni. Fateli lavorare. Meteo. The moment, carpe diem. Allora, sì, approfitta del momento, e questo vale per tutti tranne che per il mondo delle banche popolari. Adesso furibondi, anche se non possono dirlo, non c'è nessuna dichiarazione ufficiale, ma lo sappiamo che sono tutti arrabbiatissimi, i vertici delle banche popolari. Domani ci sarà appunto il comunicato di Assopopolari, bottiglioni di Malox, ma sono arrabbiati anche i sindacati. Allora, la riforma, ne abbiamo raccontata ieri, ma la riassumo in una battuta: riguarderà le 10 banche popolari sopra gli 8 miliardi di euro di patrimonio, che quindi sono Banca Popolare, UbiBanca, Popolare di Milano, Banca Popolare Emilia Romagna, Popolare di Vicenza, Credito Valtellinese, Popolare di Sondrio, Veneto Banca, Popolare di Bari e mi sono dimenticato la Popolare di Vicenza, non l'ho detta. Ah, Popolare Etruria e Lazio. Via il voto capitario, una testa un voto, quindi ognuno voterà in base alla percentuale di azioni che ha, come avviene per le altre banche. Via il tetto massimo all'1% di possesso, via il fatto che ci debbano essere almeno 200 soci. Saluto e ringrazio per essere in collegamento con noi proprio Lando Sileoni, che è il segretario generale della FABI. Buonasera. Buonasera. Cos'è che non vi convince di questa riforma? Ho visto che temete che questo poi porti a fusioni, quindi a esuberi, però questo può succedere sempre anche nell'SPA, cioè non è che possiamo adesso non fare le riforme per il timore che un settore si consolidi. Intanto, come lei sa, abbiamo perso 68.000 posti di lavoro, ma il problema è che c'è una maggiore attenzione da parte delle popolari verso il tema occupazione. Quando noi rinnoviamo i piani industriali abbiamo meno problemi, anzi spesso siamo riusciti a confermare i giovani precari e siamo sempre riusciti a fare nuove assunzioni. Diciamo che le SPA hanno un'altra ottica e un altro modo di gestire gli stessi esuberi di personale. Quindi siamo preoccupati perché, come dire, vediamo in un futuro non eccessivamente lontano, diciamo che da giugno 2015 a tutto il 2016 noi prevediamo tutta una serie di nuove fusioni che interessino per primo, come tutti sanno, Carige e Monte dei Paschi, e quindi abbiamo quasi la certezza matematica che sorgeranno dei problemi sul tema occupazione, perché quando si fonderanno una popolare con un SPA, oppure le popolari diventeranno SPA, è chiaro che dovranno rispondere ad altre logiche di mercato. Allora, sì, fermo restando che uno potrebbe obiettare che il fatto di essere SPA o di avere lo statuto dei popolari non è fatto per mantenere dipendenti in eccesso, ma è fatto per garantire i diritti degli azionisti, quindi da questo punto di vista io capisco il suo ragionamento, però è anche un po' difficile accettarlo. Sileoni, lei mi dice finché restano con questo statuto non utilizzano i criteri, diciamo, sugli esuberi che utilizzano l'SPA, vuol dire che però sbagliano. Non penso che nessuna banca faccia degli esuberi così per divertirsi, lo farà per motivi di efficienza, no? Beh, talvolta l'hanno fatto anche per divertimento, lo dico molto chiaramente, ma al di là delle polemiche che non c'entrano, la preoccupazione nostra sta nel fatto che, come dire, le popolari stanno su. Ovvio, hanno sempre dato delle risposte anche in termini di tempo immediate. Le faccio un esempio: l'accesso al credito per una famiglia e per un'impresa, le popolari hanno delle risposte immediate perché stanno sul territorio, conoscono il territorio e vigilano sul territorio, mentre le SPA burocrazia diversa e hanno quindi dei tempi molto diversi. Quindi per quanto riguarda l'aspetto, il rapporto verso la clientela, i tempi sono nettamente più brevi ed hanno un rapporto, diciamo così, quasi personale, perché conoscono il territorio sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto adesso sociale. Sì, io non voglio difendere l'SPA e quindi Unicredit, Intesa e tutte le altre banche che non sono popolari, però adesso onestamente così dire che la Popolare di Milano piuttosto che il Banco Popolare abbia un rapporto, le cito per le dimensioni che hanno, ci mancherebbe, sì. Che hanno un rapporto diverso sul territorio, o diciamo che praticamente sbagliano le SPA, o diciamo sostanzialmente una cosa inesatta, perché ho tutta questa differenza tra atteggiamento con il territorio delle banche. Se lei mi parla delle BCC, delle banche di credito cooperativo, siamo d'accordo, delle piccole popolari siamo d'accordo, ma su istituti che hanno le dimensioni di un SPA io la seguo molto poco su questo. Però Sileoni, a maggior ragione, per essere malizioso, mi viene il sospetto che a voi come sindacato possa anche dispiacere, mettiamo così, perdere peso. Allora lei, visto che ci sono le popolari, mi citi anche il caso della Popolare di Milano, dove un blocco sindacale interno non ha permesso alcuna riforma della governance interna, e mi dica anche se è corretto un attimo che grazie al voto capitario, cioè una testa, un voto, al di là di quanto io possiedo di una banca, lì contino le teste, e quindi poi il sindacato interno, diciamo, ha obiettivamente un peso più forte. Può anche essere che lei sia d'accordo, però ammettiamolo. Ma guardi, su questo, sul tema BPM, come lei sa, conosce anche il mio pensiero, ha perfettamente ragione. Ma tenga presente che io non sono legato al generale, sono il segretario generale dell'organizzazione del credito dal 2010. Il primo atto che ho fatto è stato l'azzeramento, il commissariamento della mia organizzazione sindacale in BPM. La famigerata associazione amici della BPM, che rappresentava il primo azionista della BPM, dopo 30 anni di storia l'ho azzerata io. Quindi posso essere probabilmente l'unico che ha titolo a parlare in maniera costruttiva e positiva e trasparente della stessa BPM. Per quanto riguarda, mi lasci dare una risposta sui grandi gruppi bancari. Guardi, la scommessa di questi ultimi anni dei grandi gruppi bancari è stato quello di riconquistare il rapporto con il territorio che avevano perso. È vero. Più volte nei piani industriali la cosiddetta banca dei territori non è mai politicamente, non ha avuto mai dei per i grandi gruppi bancari delle risposte concrete. Nei momenti di crisi le banche popolari, le banche di credito cooperativo sono stati quelli che sono stati meno impegnati, per esempio, da scandali, no? Ecco, dai Sileoni, adesso per favore non citiamo le piccole banche che sono veramente piccole, popolari, le BCC, perché allora mi tocca tirar fuori la vicenda Italease sul Banco Popolare, che ha distrutto valore per tutti gli azionisti. Banco Popolare nasceva dalla fusione della Popolare di Verona, Popolare Novara e Pop Bergamo. Me la ricordo. Allora, lì di popolare non c'era nulla, era tutto impopolare, per quello che io sono un po' restio a dire. Se ragioniamo sulle dimensioni, è verissimo che la piccola BCC del territorio ha un rapporto diverso dalla grande banca, ma solo come dimensioni, non perché SPA o perché popolare. Direttore, lei conosce bene il settore, no? Mi lasci dare una risposta. Italease, piuttosto che Banca Popolare, ha delle responsabilità enormi la Banca d'Italia, e soprattutto quella gestione della Banca d'Italia di allora, come lei sa. Quindi io non credo che sia un problema, come dire, di mala gestione della Banca Popolare di allora. Tenga anche presente che le banche di credito cooperativo, all'interno delle banche di credito cooperativo c'è una presenza importante di dipendenti soci. Ma perché noi difendiamo il voto capitario? Perché è l'unico strumento che i soci e i dipendenti soci hanno per valutare ogni 3 anni l'andamento della gestione. Chiedetelo anche per l'SPA, cioè se il meccanismo di merito possibile è il voto capitario, io non capisco perché ci devono avere solo le popolari. Allora i manager bancari occorre che gli azionisti siano anche i soci, cioè che i dipendenti siano anche azionisti, e il voto capitario andrebbe esteso anche all'SPA. ha ragione, nei momenti di crisi, come è stato fatto in Germania, i rappresentanti dei lavoratori e non in Italia, i rappresentanti dei lavoratori si sono fatti carico della gestione e partecipando all'interno dei consigli di amministrazione hanno fatto sentire in maniera trasparente e costruttiva la loro voce. Noi abbiamo proposto più volte ad Intesa e ad Unicredito la presenza non dei sindacalisti ma dei rappresentanti dei lavoratori per controllare gli stipendi di manager, le sponsorizzazioni, le consulenze. C'è stato sempre alzato un muro invalicabile. Ecco la differenza che c'è fra i grandi gruppi bancari e le popolari, le BCC. Allora. Poi noi abbiamo come prima sindacato rappresentiamo iscritti e lavoratori sia all'interno dei gruppi bancari sia all'interno delle banche popolari, ma tenga presente che la gestione del personale del territorio sotto l'aspetto bancario ed economico e sociale per quanto riguarda gli stessi lavoratori è completamente diversa, c'è un atteggiamento meno aggressivo e su questo questo argomento va dichiarato con la massima chiarezza. Lei l'ha fatto chiaramente, demagogia. Io nel ringraziarla Silvione dico dalla luce del suo ragionamento uno dovrebbe dire l'approccio dovrebbe essere diverso, trasformate o applicate lo statuto delle popolari anche a Intesa e a Unicredit, perché se quello è il meccanismo che è meno aggressivo sul territorio, che ha più rapporti con di valutazione tra dipendenti e manager, che è più attento alle esigenze del territorio, allora sbagliano Unicredit e Intesa San Paolo. Grazie al segretario generale della FABI Lando Sileoni. Grazie a lei, buonasera. Torno a un vecchio classico di questo programma, perché veramente la confusione nella mia testa è totale. Cioè adesso praticamente, ma io ho capito benissimo il ragionamento del sindacato, cioè quello è un modello che funziona. Allora estendilo, visto che rappresenti tutto il mondo bancario, dei bancari, estendilo anche a Intesa e a Unicredit. Dopodiché io invito tutti a stare molto attenti, a iniziare con la lista dei buoni e dei cattivi, che poi i buoni sono tutti da una parte e i cattivi tutti da un'altra, perché sennò tocca veramente tirare fuori l'elenco. Allora da una parte c'è il Monte dei Paschi, gravissimo quello che è stato deciso, ma lì non c'entrava la SPA o la Popolare, lì c'entrava il legame con un partito che si chiama PD in quel territorio, una fondazione, un legame se vogliamo forse patologico con la senesità, ma cosa c'entrava lo statuto? Anzi, avessero avuto tutta la banca popolare forse finiva anche peggio con i blocchi che si potevano creare lì dentro. Però poi tocca citare Banca Popolare come facevamo prima e vedere che non è sullo statuto, se ragioniamo di quelle dimensioni, poi che la BCC, la banca di credito cooperativo sul territorio abbia altre logiche, debba rappresentare tutti i soci, non ci possa essere come nella fattoria degli animali di Orwell il maiale che pesa più degli altri, va bene. Ma infatti il governo non tocca quello, tocca solo le banche sopra gli 8 miliardi di patrimonio. E a chi mi chiede perché lo fa? Beh, perché c'è una misura che si chiama Investment Compact, che deve essere trasformata in legge entro 60 giorni, e all'interno di questo la Commissione Europea oggi, pochi istanti fa, ha fatto una nota, ha detto prendiamo atto del decreto legge sulle banche popolari che dovrebbe semplificare la struttura della loro governance e rendere più semplici per esse raccogliere capitali. E adesso voglio ascoltare con attenzione anche nei prossimi giorni che cosa da dire tutto quel mondo che difende a spada tratta le popolari. Però ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Marco Nado, editorialista del Sole 24 Ore. Oggi ha scritto un pezzo proprio sul giornale. Buonasera professore. Buonasera. Ha sentito i sindacati? No. Ho sentito. No, adesso io ho letto il suo pezzo con attenzione. Lei è molto equilibrato a differenza di chi le parla. Però adesso non partiamo con la cosa manichea che nel mondo delle popolari sono tutti santi che pensano solo al territorio, al prestito, al commerciante, a trovare modi, e nel mondo delle SPA sono tutti squali di Wall Street, perché lì non ci sto più io, poi mi tocca difendere anche i grandi colossi. Ma voglio dire, questo non è neanche il punto del contendere, tant'è che il problema vero è che le banche popolari sono dimostrate refrattarie ad ogni appello all'autoriforma. Allora, Adesso, dopo il traffico, visto che il suo articolo diceva sostanzialmente, allora, questo, il metodo del governo non l'ha convinta, professor Nado, poi ne parliamo, un po' così, tranchant, un po' brusco, grossier, per usare francesismi, visto che oggi Renzi parla in inglese e noi parliamo in francese. Però lei anche, dice anche, attenzione, quando tu non ti riformi mai, arrivi poi a un momento che ti riformano gli altri, se posso usare questa forzatura. Dopo il traffico ci spiega bene perché. Fiorani, a qualcuno dice qualcosa Fiorani? Era il dominus incontrastato della Popolare di Lodi. Poi ci furono tutte le operazioni di Grandair, ok? Era una banca popolare e si è comportata in maniera molto popolare. E dai. Allora, professor Nado, cos'è che non la convince nel metodo usato dal governo, ma perché lei scrive oggi su Sole 24 Ore le popolari si sono messe nell'angolo da sole? Di riforma della governance della popolare si parla almeno dai tempi del testo unico della finanza, quindi stiamo parlando di oltre 15 anni. E allora la lobby della categoria chiese di stralciare il tema e di rinviarlo alla riforma più complessiva, che è il solito modo per dire le calende greche. Facciamola, diciamo. E infatti la Banca d'Italia, tutti i problemi si sono incancreniti, hanno dimostrato che ci sono problemi di governance. Fiorani era una popolare, come dichiara la Banca di Fiorani, era una popolare, come ha ricordato, ma il modus operandi era poi quello anche della Cassa di Risparmio di Genova, cioè esatto. Il domi sono incontrastato, eccetera. Quindi dobbiamo ricordarci che la struttura, né nel bene, la struttura societaria e il corpo di governo, né nel bene né nel male sono decisive, no? Ecco. Allora, mi dica una cosa, professor Nado, che ho ancora due minuti. Secondo lei, però, visto che lei diceva, insomma, il modo usato dal governo, insomma, un po' grossier, un po' un elefante in una cristalleria, decreto d'urgenza, il sospetto, così do un colpo anche al governo, è che in realtà questa accelerazione sia dovuta al fatto che bisogna salvare il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di Risparmio di Genova. Lei ci crede? C'era quello che diceva che a essere maliziosi. Era Andreotti, no? A peccare si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Esattamente, no? Effettivamente quello è un problema, perché la cosa che mi lascia perplesso è tutta questa entusiasmo per un'ondata di fusioni bancarie che francamente non vedo almeno in termini generali così necessaria. Le fusioni sono le cose maledettamente complicate e che portano almeno tanti problemi quanti ne risolvono. Quindi la fusione, perché c'è un problema enorme, appunto Monte dei Paschi piuttosto che Cassa di Risparmio di Genova, è un conto. La fusione per la fusione, perché mettere insieme due è meglio, francamente no. Non è detto, non è detto. Non è detto. E secondo me c'è un problema anche le banche europee sono fin troppo grandi, insomma. E quindi, no, ma infatti, se il governo, io sono d'accordo con lei. Le grandi banche hanno oggettivamente dei problemi con il credito alle piccole e medie imprese, eccetera, e perché le fusioni hanno generato problemi che non sono stati ancora digeriti. Banca Intesa ha ristrutturato la Banca dei Territori, credo, sette volte negli ultimi 10 anni. Qualche cosa vorrà dire, no? Sì, allora, però lì vede, lei ha ragione, lei conosce bene il mondo bancario. Un conto è allora ragionare di dimensioni, ed io sono d'accordo con lei che l'idea che le banche devono essere grosse e universali ha fallito miseramente, perché alcune saranno anche grosse e universali, ma altre devono essere più piccole sul territorio. Altra cosa è dire che la banca migliore del mondo è la Popolare, perché i sindacati hanno un grosso peso lì dentro e perché, diciamocela tutta, professor Nado, nel mondo delle popolari si univano molti interessi politici, economici, di imprenditoria sul territorio. Allora c'è un centro di potere, questo è. Chi mi dice la Popolare Etruria del Lazio? Beh, a me risulta che il tier 1 della Popolare Etruria sia sotto i livelli minimi, per cui tutto questo grandissimo esercizio non lo vedo, però sarò io prevenuto. Grazie anche al professor Marco Nado. Adesso il GR24 e poi gli altri temi di questa puntata, a partire dalla borsa e dalle popolari in borsa. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa e poi anche i temi di carattere internazionale tra Davos e Barack Obama sullo Stato dell'Unione. Rapidissimo commento a molti messaggi. Io non ho detto che non ci sia, che questa riforma sia bellissima, ho solo detto che iniziare a dire che le banche popolari sono le uniche che si occupano del territorio e che sono le uniche vicine, e le SPA invece sono in mano solo a dei manager bancari che pensano al profitto e a licenziare i dipendenti, è una grandissima cavolata. Perché allora non devo ricordare che intanto anche le fusioni le hanno fatte anche le banche popolari. Banco Popolare nasce da una fusione, ricorderete la BPU e il Banco di Brescia e via così. E poi ho fatto alcuni nomi, ci fu lo scandalo di Tallis che travolse i vecchi vertici della Banca Popolare, del Banco Popolare, scusatemi. Ci fu Fiorani. Uno mi scrive: ma allora se un ristoratore è disonesto non si può dire che tutti gli ristoratori siano disonesti? Ho capito, ma non si può neanche dire che i meccanismi di controllo delle banche popolari permettono il vero controllo sui manager. Permettono tanto potere ai sindacati e ad alcuni soci anche importanti. Ci sono tanti consiglieri, consiglieri del territorio. Questo è. Dopodiché ci sono delle banche popolari che funzionano benissimo e delle altre banche popolari che funzionano meno bene. Allora lì il tema è scegliere la banca per l'imprenditore che funziona meglio, quella che ti tratta meglio, che sia popolare o SPA. L'importante è non scegliere la banca impopolare. Ok, ma non diventiamo manichei, adesso tu improvvisamente scopriamo che lì c'è solo il bene. Manca un po' che diventino delle onlus e delle ONG, ma dai su. Comunque il mercato crede che si andrà avanti, il Banco Popolare guadagna il 9,83%, guadagna anche, ma molto meno, la Pop Milano il 3,61%, la Popolare Emilia Romagna il 3,30%, Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. I motivi? I motivi sono ovviamente la riforma del governo Renzi, poi sono circolati numerosi studi degli analisti, questi ritengono che le banche popolari in media registreranno rialzi del 20% una volta trasformate in società per azioni, se non altro perché ovviamente saranno contendibili. Perché il Banco Popolare è andato meglio? Perché potrebbe essere protagonista di un riassetto, ma non magari nel ruolo di aggregatore come invece ha indicata UBI che è salita ma solo del 3% e quindi molto meno rispetto al Banco Popolare. Secondo alcuni analisti, anzi, il Banco Popolare potrebbe diventare, diciamo, protagonista di una eventuale super popolare. Ovviamente sono tutte ipotesi che circolano sul mercato, ma per adesso ancora devono essere trasformate in società per azioni. Sì, giustamente alcuni ascoltatori mi scrivono in merito alla Popolare di Milano che veniva citata e dove erano i controlli del voto capitario dei sindacati ai tempi di Ponzellini. Ponzellini è sotto inchiesta, pesantemente sotto inchiesta, è stato il numero uno per molti anni della Popolare di Milano, a dimostrazione che, se, cioè voglio dire, non basta dire il voto capitario o il tetto dell'1% per dire a questo punto la governance è perfetta, i controlli ci sono. Su, se uno vuole, le operazioni che poi attirano l'interesse della magistratura, mettiamo così, le riesce a sviluppare sia con la banca popolare che con la banca SPA. Questo è il problema. Se ci fosse una ricetta, saremmo i primi a dire adottatela. Comunque, altri titoli invece. Oggi bene ST Microelectronics, ma anche bene Telecom Italia, più 2,55%. Sì, su Telecom ci sono due motivi. In primis, ieri proprio la nostra agenzia ha indicato che la controllata di Telecom Italia, ossia Telecom Italia Media, potrebbe essere oggetto di un delisting, visto che la stessa Telecom ha provato a vendere la società, ma alla fine poi la cessione non è andata in porto, quindi potrebbe procedere a un delisting, anche se poi la stessa Telecom ha gettato un po' acqua sul fuoco dicendo che per ora non è stato deciso niente, però non ha nemmeno smentito che ci sia in atto questo progetto. E ovviamente Telecom Italia Media questa mattina è arrivata a guadagnare l'11%, poi ha chiuso in progresso del 3,5%. Comunque, a muovere i titoli della controllante Telecom Italia più 2,55% è stata anche l'indiscrezione di Repubblica, secondo cui potrebbe vendere i cavi sottomarini detenuti dalla controllata Sparkle. Ma anche qui il presidente Recchi, peraltro presente a Davos poco fa, diciamo che ha smentito dicendo che per ora non ci sono progetti di questo genere. Allora, la controllata Sparkle gestisce 450.000 chilometri di fibra globale, se ricordo bene, per cui non è di poco conto. Invece si è ripresa molto Saipem, e qui non c'entra il prezzo del petrolio, ma il tema del gasdotto South Stream che Putin ha fatto saltare. Saipem era un committente molto importante, però oggi sono circolate voci di che si potrebbe aprire una nuova possibilità per il gasdotto Turkish Stream, no? Esatto, infatti le Saipem hanno iniziato a macinare guadagni, in primis perché va su il petrolio e quindi questo trascina in alto tutti i petroliferi, anche la controllante Eni ha fatto più 3,5%, e in secondo luogo, per quanto riguarda Saipem, si pensa che possa prendere delle commesse per la realizzazione di Turkish Stream, che sarebbe il gasdotto che andrà a sostituire South Stream, che ricordiamo è invece dallo scorso 1° dicembre è stato, cioè un progetto che è stato annullato su richiesta di Gazprom, della russa Gazprom. Allora, ancora sui titoli, bene di nuovo il settore moda, le sfilate a Milano aiutano, lo dicevamo già ieri, più 2,70% per esempio Moncler, ma non è l'unica, Ferragamo più 1%, poi nel settore lusso più che moda, cioè mettiamo anche Campari più 1,30%, Luxottica no, meno 1%, ma continuano a calare Luxottica dopo i dati che erano pure dati buoni. A2A meno 3,50%, A2A. Sì, per quanto riguarda le utilities sono state messe sotto diciamo la lente di Goldman Sachs e quindi si sono mosse su appunto i giudizi della banca d'affari, alcune in rialzo, alcune in ribasso. A due è andata giù e nel Green Power ad esempio ha guadagnato circa il 2%. Allora, male anche Yux, meno 2,50, Buzzi Unice meno 1,20, G-Tech meno 1, Wall Duty Free meno 0,40%, euro a quota 1,1572. Le migliori, beh, chiaramente le banche popolari. Etruria e Lazio guadagna il 27%, a dimostrazione che si immagina al mercato operazioni non solo sui grandi gruppi delle banche popolari, ma anche su quelli minori. Popolare di Sondrio più 11,20, Creto Valtellinese più 11% anch'esso, e poi Banco Popolare più 9,80%. Fronte opposto invece a Cotel meno 9,70 e poi KF meno 6,60, Tech Value meno 5,44, Visibilia meno 5,22%. Molti mi scrivono: guardi che Renzi sta facendo questa operazione sulle banche popolari per presentarsi a Davos e svendere l'Italia, dire ai banchieri, alla finanza mondiale, venite e compratevi le nostre banche. Guardate, non lo so onestamente, questa è dietrologia, però posso dire che me ne frega anche relativamente poco, cioè o uno ritiene che questa riforma sia giusta e chi se ne frega il motivo per cui Renzi lo fa, perché ha avuto una delusione da adolescente con la banca popolare o perché va a Davos, o ritiene che questa riforma sia sbagliata perché c'è una virtù migliore nelle banche popolari che è resa possibile dal voto capitario e dai limiti al possesso societario, e può pensare che appunto ci sia un principio di superiorità morale nella governance, etica, nel rapporto col territorio delle banche popolari grazie al voto capitario. A me sembra che la cronaca anche di questi ultimi anni dimostri che non è così, che uno è onesto o disonesto, che fa operazioni per o contro la clientela per altri motivi. però liberi di pensarla come si vuole. Grazie Eleonora Micheli, il traffico. Maintaining the conditions of growth and competitiveness. Mantenere le condizioni di crescita e di competitività. Ecco in quale direzione deve andare l'America. Io credo che sia la direzione dove gli americani vogliono andare. Da qui a un anno, da qui a 15 anni, la nostra economia sarà più forte e sarà protagonista di questo secolo. Accetteremo un'economia che solo per pochi funziona straordinariamente bene? O ci impegneremo per un'economia che fa salire i redditi e aumenta le chance per chi fa sforzi? L'ombra della crisi è passata e lo Stato dell'Unione è solido e forte. In questo momento, con un'economia in crescita, un deficit in calo e un boom della produzione energetica, siamo emersi dalla recessione più liberi di scrivere il nostro futuro, di tutte le altre nazioni sulla Terra. Oggi, grazie a un'economia in crescita, sono sempre di più le famiglie che stanno avendo benefici. Finalmente i salari stanno crescendo di nuovo, sempre più piccoli imprenditori vogliono aumentare il salario dei loro dipendenti, un fenomeno che non aveva questa portata dal 2007. Penso che sia chiaro. È l'economia della classe media, ossia l'idea che questo paese fa meglio quando tutti hanno possibilità, quando tutti fanno la loro parte e quando tutti giocano secondo le stesse regole. Everyone does their fair share. Everyone plays by the same set of rules. Allora, sì, dai, la battuta la sapevo che sarebbe arrivata, è meglio l'inglese di Barack Obama che quello di Renzi, ma ci mancherebbe, dai. Però il punto è un altro. Obama ieri ha fatto anche sui temi economici un discorso di altissimo livello, di altissima visione, sembrava, lo dico senza retorica, di sentire alcuni passaggi di Kennedy. Domanda a Mario Platero, un po' maliziosa, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano. Allora, non è che Obama abbia fatto un discorso così alto, così di vedute, così da leader, così sul futuro di una nazione, oltre che sullo stato di un'unione, e così ispirato, perché tanto sa che essendo in minoranza al Congresso le sue proposte non passeranno? Sicuramente la domanda che tutti si facevano era questa. Cioè che era facile spararle alte, tanto non ti fanno passare le proposte. Sì, hai ragione, però c'è una spiegazione, infatti questo mi incuriosiva molto, c'è una spiegazione a tutto, perché tu capisci, 2 mesi fa Obama è stato sconfitto alle elezioni, i repubblicani hanno vinto la Camera, hanno vinto il Senato, sono in controllo del Parlamento, la ricetta Obama è stata bocciata e uno si immagina che il Presidente va in Congresso a dire benissimo, allora avete vinto nel rispetto della democrazia, adesso io farò delle proposte che so che voi potrete accogliere e poi troveremo un compromesso. Invece ha fatto delle proposte su cui i repubblicani rispondono soltanto di no, cioè è andato a dire ai repubblicani aumentiamo le tasse. Quando i repubblicani hanno vinto alla parte più ricca del paese, però adesso ho ben capito. Però... Sì, no, cioè, d'accordo, però voglio dire, quando i repubblicani hanno vinto le elezioni partendo dal tabù tasse, le tasse non si toccano. Certo. Ecco, quindi era comunque una proposta anche alla parte più ricca, adesso poi arriviamo alla sostanza. Quindi si sapeva che i repubblicani avrebbero detto no. Perché l'ha fatto il presidente? Beh, perché in realtà lui sta lanciando la campagna elettorale del 2016, lui sta lanciando la piattaforma democratica, lui vuole che ci sia in qualche modo un'eredità che parte dalla sua amministrazione per definire quel futuro lontano, come ci diceva prima il testo che abbiamo ascoltato, su cui si potranno scrivere le nuove pagine di testo del futuro americano. L'America è in vantaggio, ha una crescita buona, ricordi fino a poco tempo si parlava dell'America in declino, no? Ecco, oggi non si parla più dell'America in declino, e quindi Barack Obama guarda lontano, ormai hanno perso, quindi fa delle proposte che sa che non passeranno proprio per quella ragione. Ecco, detto questo, rischiano i repubblicani? Forse sì, ti dico perché, tu stesso l'hai anticipato, lui fa delle proposte di aumento delle tasse soltanto per coloro che hanno dei redditi superiori ai 500.000 dollari, e non vuole aumentare le tasse sul reddito, vuole aumentare solo le tasse sul guadagno di capitali. E di quanto? Dal 23,8% al 28%. Dunque, tasse su aumenti di capitali che aumentano di meno di 5 punti solo per coloro che hanno 500.000 dollari di reddito. Non è una cosa, come dire... Non stai ammazzando la classe media americana, dai. Non gli metti una pistola alla testa, non solo. Lui si propone di restituire questi 320 miliardi di dollari che dovrebbe incassare in 10 anni alla classe media, fino a redditi addirittura di 95 mila dollari l'anno, per cui include, devo dire, una bella fetta della popolazione americana che potrà beneficiare di che cosa? Di un triplicarsi delle deduzioni per figli. Oggi sono fino a 1000 dollari a figli, potranno essere fino a 3000 dollari a figli, a figlio. Potranno avere gli americani accesso alle università, cosiddetti community colleges, che sono questi college, queste università statali, accesso gratuito, senza dover contrarre un debito, senza uscire dall'università con un debito da pagare. Insomma, sono delle iniziative che in qualche modo vanno davvero incontro alla classe media. Dunque una proposta alla sua intelligenza, una proposta alla sua intelligente, che non guarda all'oggi, non guarda alla possibilità di un accordo con i repubblicani, ma guarda al domani. Qual è l'incognita? È vero che oggi i salari sono bassi, non c'è stato un rimbalzo dei salari, però ci stiamo anche avvicinando al 5-6%, siamo già arrivati al 5-6% del tasso di disoccupazione, il 5-2% è il tasso implicito nell'economia, 11,2 milioni di occupati negli ultimi 58 mesi, questo significa che cosa, secondo me? Che da quei prossimi 2 anni il tasso di disoccupazione scenderà ancora e cominceranno ad esserci persone al rialzo sui salari. Ti cito un dato che secondo me è molto interessante. I salari medi americani come percentuale dei redditi totali, salari medi diciamo dei lavoratori, della classe media, erano del 62-66%, oscillavano tra il 62-66% fra gli anni 60-70, addirittura anni 80. Dopodiché hanno cominciato a stabilizzarsi, dal 2000 in avanti, si vede un grafico, precipitano in modo verticale, dal 2000, quindi ben prima della crisi, e scendono fino al livello attuale che 54% del reddito totale, una caduta di 10 punti. Guarda, hai se fatto da ragionamento... 54, ritorniamo al 60-62, sì. I repubblicani potranno dire avevamo avuto ragione noi, niente tasse, quindi Obama... No, io adoro Mario Pratero per tanti motivi, ma anche perché mi permette di non lavorare, perché fare le cose, fare domande. Bravissimo Mario, ho capito tutto perfino io, quindi altro non ho da aggiungere. Intelligente politicamente Obama, che pur sapendo che nessuna di queste proposte così passerà, ma butta la palla nel campo avversario, dice: vedi, noi siamo per avere questo tipo di aiuto alla classe media, tassare relativamente poco solo i guadagni da capitale di chi ha più di mezzo milione di dollari di reddito. E vediamo voi repubblicani che cosa farete. Chiaro anche il rischio che corre Obama. Grazie a Mario Pratero, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. C'è Mario Draghi, ci sarà anche il comunicato delle banche popolari. Radio 24, la passione si sente.